è stato proclamato questa giornata nazionale di lotta e qui a Roma stiamo facendo, come un po' in tutte le città in Italia, stiamo facendo dei presidi, chi sotto l'assessorato, chi sotto le associazioni delle cooperative, in concomitanza con la sigla del contratto nazionale. Un contratto nazionale, secondo noi, bidone, che è stato siglato tra le associazioni cooperativistiche e CGIL CISL UIL. Chiaramente noi diciamo che tra l'altro queste due figure delle associazioni delle cooperative e dei sindacati confederali poi in larga parte coincidono, perché la Lega Coop noi sappiamo che è legata alla CGIL, la Confcooperativa è legata alla CISL, eccetera, per cui è un contratto di fatto fatto tra loro. È un contratto bidone perché arriva dopo 30 mesi di vacanza contrattuale e non risarcisce di questa vacanza contrattuale, che praticamente ha fatto perdere mediamente 2.400 circa, da 2.400 a seconda del livello anche 3.000 euro ai lavoratori, e risarcisce per esempio l'arretrato con 430 euro circa, che verranno pagati in 18, chi dice in 22 comode rate, quindi ci troveremo a recuperare solo parzialmente, una parte infinitesima, l'arretrato solo alla fine della vacanza, dell'attuale rinnovo del contratto. Non prevede, gli aumenti previsti sono risibili e anche questi scaglionati in tre tranche che finiranno a novembre del 2005. Ma non tanto l'aspetto economico, sicuramente l'aspetto economico, ma anche la parte normativa subisce delle variazioni in peius notevoli. Viene introdotta un'ulteriore flessibilità, viene per esempio a modificarsi rispetto alla legge il lavoro straordinario notturno, e in più nel caso per esempio di part-time misto era prevista nel vecchio contratto una maggiorazione del 10% della paga oraria, e in questo contratto appena siglato viene meno questa maggiorazione. Insomma, c'è tutta la parte normativa che va a sostegno della bufala della parte economica, insomma. Ora, chiaramente, trattandosi di lavoratori che nel settore delle cooperative sono già precari, perché spesso si fa dell'assistenza alle persone, quindi assistenza alle persone significa che degli operatori per esempio lavorano da una parte e fanno assistenza a un anziano, poi vanno in un'altra parte della città a fare, e quindi è tutto precarizzato, tutto ulteriormente delegato praticamente alle volontà delle cooperative, che d'accordo con le controparti istituzionali, le amministrazioni, no? Vanno al ribasso in questi servizi sociali, vanno al ribasso a scapito, dovendo comprimere la spesa sociale, il tutto va a discapito del costo del lavoro, per cui la precarizzazione, i bassi salari, tutto quello che comporta questo tipo di cose. Come coordinamento romano, tra l'altro abbiamo un tavolo aperto con l'amministrazione qui, l'assessorato, perché nel 2000 avevamo ottenuto con una raccolta di firme popolare, 8.000 firme circa, avevamo ottenuto dal Consiglio Comunale una delibera che poi è stata approvata nel 2000 all'unanimità dal Consiglio sull'applicazione dei contratti e dei sindacali in tutti gli appalti concessi dal Comune. Però questa delibera effettivamente non è mai stata operativa, perché non c'è mai stata la volontà di applicarla, né le risorse per far funzionare un osservatorio che controllasse queste cose. Si parlava nella delibera di controlli semestrali nelle cooperative e di controlli straordinari su denuncia di singoli o delle associazioni sindacali, però di fatto non ha operato, anche perché tra le righe gli assessori ci dicono c'è il veto dei CGL e CISL, e questo è un settore particolare di mutualità, di appunto di cooperazione, ma noi sappiamo che oramai non è più così, di mutualità le cooperative non c'hanno più niente. Basti pensare per esempio che esistono due tipi di contratti, il contratto degli operatori e il contratto dei dirigenti delle cooperative, che mi sembra che sia stato rinnovato recentemente con 430 euro di aumento, mentre agli operatori si scaglionano in 3 anni aumenti miseri e miserabili.